basso, sì sì, ma se Claudio, sta arrivando qua, c'è molto, vorrei che ti porti appresso, o me, e prosciglio, a malapena, ma ieri è più forte il radio, e adesso, Claudio, mi dispiace, non riesco a percepire ciò che dici, tu cambiati apparato, perché se c'è troppo basso il radio, metti un quasi zero, chi c'è ancora sul 10? Hola, attenzione, Natalino. Oh, ya. Yeah. Beh, già. Cosa c'entra Gianni? Ai, Natalino. Non so Gianni, abbiamo attinto. La vecchiaia è carogna. Lo so, tutti carognatici. C'era anche un orgito, ma arrivavo loro QRM proprio, Come radio zero, uscì a prezzo e portiamo, Non ho capito, chi è che ti arrivava a masso? Teodoro Genito, Claudio. Ehi, Claudio, io manco lo sento certe volte, secondo come esce. Sì, ma poi ieri mi sembra, mattina quando era, insomma, ha attaccato la tua apparato, uscì più forte. Certe colonne, la radio 5 è perfetta, bella. Ma prima ancora, adesso proprio zero di radio, l'ho percepito, me l'ha detto, ma Claudio, Teodoro Genito, ci metto sì. Ma non riesco a capire ciò che dici. Ci portavo su un uscio di QRM, adesso non so se cambia apparato. Perché deve pompare un bel di watt per arrivare bene qua. E poi bisogna vedere che apparato stava usando, capito? Lui ne prova tutti, anche quelli proprio vizzaggi, quello proprio, capito? Guarda che la dottora aveva parlato che c'è bene che lo sentiamo, lo sa che a muro solo non è che ci sono tanti cimiti, ha bisogno di questo momento, se vuole fare la consaccia deve attaccare un buon apparato. E infatti deve mettere un po' di vatti, deve essere che è anche in una posizione sfavorevole per queste zone qua, tipo la tua, la mia. Una volta arrivava benissimo, l'ho trovato in banda laterale, ma ci sentivamo, gatto, guarda, una meraviglia. Però dipende sempre dall'apparecchio dratta e quanti vatti va sotto. Mi sembra che ha cambiato apparato. Claudio Cici, prego, avanti. Buonasera a tutti, doppio room da questa parte, avanti. Ciao, room doppio, mi sei detto. Ciao, ciao, oggi da inizio mi senti. Tu sei in ritardo. Ma io veramente stavo dormendo fino adesso, mi sono svegliato proprio ora, vai. E mi ho fatto una bella dormita, Tony, e mi ho fatto una bella camminata stamattina per andare lì dove ti ho detto, perché il parcheggio l'ho trovato lontano, lì è un casino a trovare il parcheggio. Ma non c'è a me stamattina che ti avrei comandato io, 2 giorni in casa sono io, non ci sto per niente. Senti comunque Natali, in ritardo era Gianni, ripeti Natali. E tanto già non ha poco di bisogno da poter recuperare. A te che ne è trattato? Io no, sì, adesso non è migliorato, che segnale. Io lo sento malissimo. Oddio. Di radio comunque ti ascolto più di prima, però non è che sia una radio perfetta, Non so che microfono stai usando. E a ciò che l'ho arrugginito. Ma io non capisco ciò che dici proprio, no? La radio è tutta confusa, non si riesce a capire, Non so gli altri come ti ascolti, non è che ti ascolto così, in questa maniera qua. Vabbè dai, se puoi cambia apparato, perché se no siamo tutta la sera così, e cambia apparato e mettine un altro, perché quello non va bene. Capa, dai, cambia apparato allora, dai, fai così, perché la radio è sempre satura, poi sia un po' comprensibile, però riesco più roba la malapena a capire ciò che dici. Avanti Natali, tu lo sentivi, sì? No, è incomprensibile qua, è incomprensibile trucchi. Io qualche parola la capivo, però molte altre no. Era tutto non riuscivo a capire niente. Sembrava quasi che fosse in banda laterale. No. E prima allora era 7,5 e radio 0 proprio, sentiva fruscio, QRM, a malapena sono riuscito a tirarlo fuori. Comunque io mi sono già cucinato, è già pronto più tardi, mi sono fatto un bel pollo in padella antiaderente con tanto di rosmarino e foglio d'alloro, belluccio mio. Ah, va bene, già va bene, un pollo ti mangi. No, ho detto pollo, vabbè, il pollo ma sono pezzi, il sopracoscia perché è tutto pollo, fa bellucci, proprio troppo Unita c'ha un bel odore, guarda. Lo so, non piace anche a me il pollo, in ogni maniera. Mi piace quei peperoni, mi piace al forno, mi piace con le patate, mi piace la cacciatora, mi piace un sacco di voi. Frustante, buonasera. Buonasera. Buonasera, lì. Avanti. Io in compagnia di Tonino Kawasaki, di Natalino Alfa 1 e poi c'è Mulos, Chioda Ruginito, dai, avanti. Chioda Ruginito? Sì, Chioda Ruginito. Questa radio che c'hai sembra che c'è la patata in bocca. Buonasera, dottor Rum, Gavino a Porto Torres, quella del nord Sardegna, allora. Ciao Gavino, ma da vicino stai parlando? È positivo, positivo, come adesso? Aspetta un attimino, ho la patata in bocca, aspetta. Guarda se c'ho patata in bocca adesso. Adesso va meglio. È positivo, dai. Ciao Gavino, da Torino. Dimmi la patata, c'è più così. Ho chiamato Natalino. Ciao Gavino, ben entrato, buonasera, dai. Natalino Alfa 1 da questa parte. Riprendendo per il QSO, avanti Gavinoci. Avete parlato in due, però Natalino ci è passato più. Ho parlato, io non ho parlato. E chi ha parlato? Ma che appare che sto scendo, Gavino? Sempre lo solito, io sempre il solito. Non ne ho altri io apparati. Ma ti devo dire che io la sento un po' barattolosa, non so se dipende dalla colonnina mia o che cosa, perché adesso ho cambiato apparato, non lo so, non so gli altri come ti ascoltino, passo il microfono a Tonino e poi vediamo un po', dai. Io come radio, diciamo, non è come altre volte, ci dico perfetto, più rimbombante, più eccetera. Scusa, ma Gavì, stai usando l'ultimo apparato che hai preso? Beh, certo, non ne ho altri io radio, ho sempre questa e sempre questa qua, non ho toccato niente, sto uscendo come sempre. Però scambia qualcosa adesso, ma procedo come sempre. Scusa, non stavi usando il 3009 prima? Assolutamente no, assolutamente no. Tu l'ho sempre usato un PV. Ma a me sembra che c'era un bip finale prima, o sbaglio? Prima, adesso no, usavo saltuariamente il 3009. No, prima avevo il VDIC, ma adesso c'ho il PV, ho usato il 3009. C'ho anche il 3009, ma non sto usando il 3009. Quindi la siete ancora barattolosa sta voce. Sì, c'è una radio strana. E tu Natali come lo copri? Diciamo che già è decente come radio. Brunoso. La radio è sempre questa e ciccia. La radio è sempre questa. Ma è strano perché stavo parlando in altri canali e niente. Hanno guardato una buona valutazione alla radio, perché non ho toccato niente. Vediamo un po' se c'è qualcuno con qualche apparato professionale, c'è qualcuno su 10 con qualche apparato professionale, ci spostiamo e facciamo delle prove, grazie. E cosa sospiro chi era? Sono io, ascolto. Cosa ti serve Gavino? Passa sul 20, claro, che mi hanno detto che c'è una voce barattolosa. Fa la cortesia. Io ti ascolto come sempre, ti sto ricevendo col 440 e ti ascolto come sempre, poi se riscontro una voce barattolosa, questo io non lo so. Buonasera a tutti intanto. Se vuoi spostarti sul 20 ti puoi anche spostare. Sei positivo, dai, sono sul 20. Zappa, ciao Claudio, buona greca. Quello non è come il 440, no? Non è che vadano tanto bene per qua. Ah, sicuramente c'è qualche cosa da regolare, boh. Prima Gavino lo sentivo bene. Sì, ma no, non ti critichisci, mi stai vecchissimo. Ma niente, la serie 50 quella, non ha niente a che vedere col 440. Ma io non lo conosco questo apparato qua, non l'avevo mai sentito. Dai, magari scaldando si riprende come si deve, ma magari ha bisogno di scaldare. Avanti tu. Sempre chiodo. Chiodo, avanti. E adesso sì, Gavino, ma ho chiodo Ruggini. Adesso sei rinato, dai, 100.000 volte. Natali, tu ascolti meglio, dai. Adesso sì. Sempre basso, io lo ascolto. Scusami. Eppure come segnale è buono qua. Claudio, 9, 10, da 5, se siete applicata ma è ultima. Neanche a paragone, è la prima volta che ti ho sentito che è proprio pio pio, eh. Un peggio di lasso. Una macchietta, Scappa. E almeno da 3 o 4 fanne uno, così almeno siamo a posto. Ognuno c'ha un difetto, vabbè. E sono apparecchi che lasciati da parte e poi si rovinano, a parte Gavino sono ancora sorvinti. Comunque niente, la Toyota è sotto ammasso anche perché diciamo è anche una zona di effetto un po' negativa dalla parte tua, capito? Okay. Avanti la tua lì. E infatti, io una volta già l'ho sentito bene, però in banda laterale era, arrivavo bene anche io lì. Perché qua boh, è una zona un po' negativa per lui. Capito. E tu c'hai tutti i palazzoni davanti, poi capite, anche per quello Natali. Vabbè, vedi, tu andare bene se abitava a monte su, allora sì, copiavi tutti forte e tutto quanto. Ma lì in basso dove sei, non è puoi fare più di tanto, anche troppo. A me arrivi bene, va bene, siamo in città, quindi. E infatti, anche quando ero in via Pietro Micca, quando stavo lì in via Pietro Micca uscivo forte e ascoltavo bene a tutti, ho parlato anche lontanissimo. Su 9.30 qua sei Natale. Quindi. E io da Sacro Cuore con la Gran Premio parlavo con tutti. È una bella zona quella Natale. E qua è un po' losca come zona. È un po' così, è un po' chiusa. Forse anche palazzi, le cose che disturbano lì. Non lo so. Eia. Vabbè. Chiodo arrugginito, avanti. Toni! Sì, Antonino deve essergli squillato il telefono e sarà in Amurendi già. No, non è vero, quando ci siamo lì, sono tornato in mino a mettere la piazza. Ah, queste persone già ti mettono in malizia, te ne mangi. Io lo so, quando ho chiamato Gianni, già non mi rispondeva perché si è mangiato la tristella. Sì. E beh già, e allora, oggi il parino non devi farla, no? No, oggi no, mi sto alzando che c'è Manuela, dai, mi è arrivata mia figlia, scusate. E io chi? Avanti a Tabì. E io. Oh signore, siamo rovinati, adesso Gianni non entra più. E arrivi dalla vigliura e siamo arruinati. E allora, sono finite anche le frittelle. E oggi c'era qualcuno qua in girondolo. Raccontano se c'è qualche pezza, perché alla zia le è arrivata una bolletta di acqua, 500 euro. Dice strano, la mia sorella ce l'ho 50 qua, 500, cosa vuoi da me? Dice, ma qua sei usato io? Assolutamente no, io sono anche con il cazzo, penso un po' con la macchiavante. Ma che vuoi che ti dica? Anche a me oggi mi è arrivata la bolletta, un po' altina lo stesso. Sì, ma siccome ci sono qua i muratori, qua hanno fatto casino. Allora, deve essere che da chi la sta facendo aggiustare quella casa, un'altra parallela, gli attacchi che l'ho fatto un casino, l'ho fatto. Io una volta andavo a aprire l'acqua, c'era solo con il tubo, poi e non vedi addio, ha già fatto un casino qua. E cosa c'era? Il chiusino chiuso, adesso qualcuno faceva l'occhio, chiudeva, prendeva l'acqua per lavorare il muratore e poi lo riaprivano. Insomma, poi ci sono dimenticati, era già mezzo io e Eva non avevo, ha già fatto un casino. Faccio un bisogno che glielo dico Antonio, quando lo vedo dico, adesso mi sono ricordato. Guarda che sono il muratore che ha consumato l'acqua, per 500 euro gli avrei fatto pagare a loro. Sì, infatti. E ci sarravano i leva allora, Doni? No, allora, hanno fatto un casino, praticamente a me mi hanno lanciato con le zie di Antonio, praticamente queste poi io sono felice perché me l'ha detto anche lui, e mia zia quando le consumava mai, ci fanno la doccia una volta all'anno, in Catalina. E lui ha detto, guarda, io acqua le consumo poco, sì, perché mi bagno, chiudo il rubinetto, lo lascio aperto, mi sapoto, guardo, poi mi sciacquo, quindi consumo pochissima acqua. Non so, lo metto i tipi che lascio sempre aperto il rubinetto, ma non so fare, no? E vabbè, comunque, poi non so né fianco niente, né piante, né nulla. Non so il banchetto, questa acqua. Ah, io non faccio altro niente, a me non mi frega niente, solamente portatore a me e poi ti posso cosa consumo io. E infatti, non conviene avere contatori separati, ma cosa, se no da voi ti accusano chi sei tu. Beh, ho detto guarda che io cucino e bevo con l'acqua delle bottiglie, non cucino con l'acqua del rubinetto, quindi, l'ho detto prezzetta, e uso solo per lavorare, ma per lavarmi l'acqua dal rubinetto, e vabbè, e poi per lavarmi i piedi, lo stesso, devo lavarmi i piedi, coricarmi, una macinella, l'acqua calda, mettermi nel bagno, poi faccio la terrota e sono a posto, non è tutto questo eccessivo che faccio di lavare, ma molte volte mangio anche dei piatti di plastica da tarì, ma lo consumare va, fatto il conto a sciacquare i piatti, a lavarli, e quindi faccio prima, finito, finito, salvo, la butto, se la... E infatti, conveni, e io se lo mettessi non lì, che vado al rubinetto, quella delle bottiglie bevo. Allora, perché non si sa com'è, vediamo un po', Claudio, chiodo regito, sì, no, non ho sentito per niente, io ho acceso anche due volte, prima un po' più presto, poi niente, e poi quando mi hai sentito tu che tu parlavi, io ti sentivo un po' la pega, e ti ho chiesto, sì, Claudio, ma io sì, ma ripeto, uscivi un po' male, uscivi, niente, ricambino niente, zero, lo starà studiando, non lo so, cazzo, io non riesco a sentirlo bene, a... Sì, pronto, sono il dottor Fasano. A chiodo arrugginito, ma roba da chiudi. Beh, è un chiodo che lui, arrugginito, però. Hai capito, Claudio? Roba da chiudi, Natalino dice. Vabbè, va giù il 2009, ma... Non riesco a sentirlo bene. Arriva una radio un po' confusa. Sì. C'è proprio parlato. Gianni, hai visto lì ancora paratolosa questa radio? Prova. Ancora barattolosa questa radio. Così è, dai, non è una di quelle radio che ho citato la prima volta, è forte, bello, chiaro. Adesso un po' così è. Ma comunque, vabbè, è accettabile, dai, non è che sia radio buttano. Ma sotto me sta bene comunque. Vabbè, andiamo a guardare i preliminari della radio, se è perfetto o meno. Ma quando ti sento bene, ti sento bene, boh. Ehi, stavo parlando anche del regista, invece tu lo sentivi per quello che lo sei promodulato, tutto qua da me. È positivo. Mi sento in mezzo, al QRM, ragazzi, io non ho capito il motivo. Ho un casino qua infinito. Ma guarda che all'inizio quando ho entrato chiodorogito lo sentivo a livello QRM io. E malapena ho detto ma sì, Claudio chiodorogito, ho detto sì, ha detto c'è che fare qualcosa, sì, Santiago 5, la radio è proprio pessima, tutto fruscio di QRM, e non riuscivo a capire bene, infatti poi ha cambiato il suo sento meglio, tutto qua. Io ho tanto di quel casino, tanto di quel bordello che la metà abbatte, neanche mettendo filtri riesce a attenuare. Porca miseria, questa è tutta quella roba che mollano, per prendere e fare, oh vabbè, passare dai. Cosa ci vuoi fare? Niente, scusa, Gianni di Perù si è spostato un attimino perché è arrivata la sua grichellina, tutto qua, la mattina da lì. E infatti, Gianni, magari non entra, ma cosa, Emanuela a casa sua e quindi starà parlando con la figlia. Comunque la radio è accettabile, mica vino. Sì, no, vabbè, sempre quella che sto usando sempre, non è che io la radio non è che ne ho tante, io ne ho questa qua è il 2009, non è che ho questa grandissima scelta di apparecchi, però avevo un filtro inserito. Che io pensavo funzionasse solo in ricezione, invece anche in trasmissione, quindi stavo uscendo con i tuoni alti attenuati, quindi è per quello che era cupa di altre frequenze. Sì, ho capito, quello lì, c'ha quel filtro lì, già ho capito l'apparecchio che è. Sì, c'ha questo filtro, è 4,50, è 4,50 e c'ha questi filtri che io pensavo servissero solo per attenuare la ricezione, diciamo tu e la voce con i toni alti ti attenuano, però non pensavo funzionasse in trasmissione, mi segui? Non pensavo funzionasse anche in trasmissione. Comunque adesso abbiamo ridotto con Claudio, siamo andati e mi ha spiegato qualcosa qua, mi ha spiegato tutto in su rete, abbiamo fatto le prove. E ho capito, lui già lo conosce quell'apparecchio. Ce l'aveva un amico mio quell'apparecchio lì, è lo stesso, ci aveva dei problemi molte volte, perché se tocchi qualcosa a voi è un macello. 50 e 40 è più facile, quella è la serie 50, dai, già lo so che apparecchio è. Sì, ma più o meno, dai, questo qua è semi digitale, è analogico però. No, ho toccato questa roba qua, pensavo solo fosse una cosa che rigetto nel difetto, ma adesso l'ho rimesso come era prima, come ce l'ho sempre, quindi non ci dovrebbero essere grossi problemi di... grossi problemi, dai. Ma voi avete QRM o sono solo io qua? No, oh, già c'è. QRM, io ne prendo poco, ma già c'è oggi. Se lo sento io, tranquillo che c'è. Io ce l'ho Santiago 5 il QRM, il Francio. Io ce l'ho, Santiago ce l'ho, il mio è Santiago 8, 4 premendo. Mi arriva 8, vabbè, io sono vicino a Mari, vero? Cioè 8 è assurdo, L'altro giorno ho acceso, sono entrato a pranzo, ho acceso un attimino a provare, era a 9. QRM a 9, per carità. Quella è tutta la porcheria che mollano in aria. E anche dall'antenna dipende, guarda, io quando avevo l'altra antenna ce l'avevo fissa a Santiago 7, se tu arrivavi meno di Santiago 7, tranquillo che non ti intendivo. È positivo, ah sì, è vero, dipende anche dall'antenna, da com'è. Ma ieri, per esempio, avanti ieri notte, non ne avevo, avanti ieri notte, prima di mettersi quel vento forte, QRM non ne avevo, eppure è a giorni, perché stazionale non ne ho, proprio zero, e tubo, sì vabbè, dipende dall'antenna, ma vabbè comunque. Ci sono quelle antenne che sono silenziose e quelle che sono un po' più rumorose, capito? Per esempio c'è differenza tra la Mantova 1 e la Mantova 5. La Mantova 1 è più silenziosa, capito? Sì, è più silenziosa. E vabbè, questa abbiamo e questa ci teniamo, non è che possiamo fare chissà cosa. Comunque, dai, l'importante è avere risolto, le prendi tu lì. Cappa, io volevo fare una chiamatina per essere in ascolto. Attenzione, Emanuele se ci sei su 10, niente da fare, ok, avrebbe già ripreso. Andrà bene, chiodo, li prendi. Claudio Ruggito, ci si sarà spostato anche lui. Vabbè. Andrà bene, sì, però comunque Gianni dalla difficile che rientra, Io ho conosciuto la figlia. Quando la sua, ti va 30 anni pure. A me quando l'ho vista, perché ti chiama 6 zanne di zutto? Sì, io la conosco da piccolina. La conosco. A lei, al figlio. Proprio da piccolino, 5 anni mi sembra che ci aveva Marco quando l'ho conosciuto io. Il figlio, da figlio. Ma io la figlia già la conosco, l'ho visto parecchie volte, la figlia non l'ho mai vista prima a Bologna, vabbè. E quando l'ho vista ho detto, figlia è vicinita, ma magari c'è 30-30, non vedi molto infatti. Andrà bene. Ok, Gavino, ripeti. È positivo. Io. Affetti, insomma. Sono affetti, tutti sono affetti. Ho lavorato nella giornata, mi sono più tanto di quando lavoro fino alle 9 di sera. Boh, sono a 7 T. Come c'è tutto a 7 Hai faticato molto oggi allora? No, proprio oggi non ho giocato nulla, forse è Palizzo che mi sopritratto. No, niente, ho fatto mezza giornata oggi, perché non è che avevo questa grandissima cosa. Per me gennaio è un mese un po'... è un po' fiacco come lavoro, capito? Quindi potrei avere anche del tempo libero, adesso fino a metà febbraio, poi si riprende di nuovo. Però io quando rimango fermo, rimango, mi inchiodo. Beh, tu pensa che io oggi non sono uscito per niente, mi sono dedicato alla casa, ora a tirare polvere, lavare qualcosa, lavare per terra, eccetera, eccetera, insomma, poi idearmi su un qualcosa che poi, insomma, mi faccia per la serata, ma come sono a posto. Cosa volevo dirti? Ma non è che per caso, David, tu riesci a resettarmi il computer? Assolutamente no, non sono... Cioè sì, ce le ho, però anch'io lo porto in assistenza quando ho questi problemi, perché per roba delicata da fare, quindi bisogna portarlo dai centri, diciamo, autorizzati. Lo porti a Sassari e te lo fanno, ma te lo fanno in 10 minuti, te lo carichi in macchina e te lo fanno. No. Non lo faccio nel mio. E quindi... Anche perché secondo il computer è un casotto. Secondo il computer è un casotto. Io ho questo qua di casa che l'abbiamo pagato, guarda, l'ha pagato a ottobre, l'ha pagato 1400 euro. E ne avevo un Acer che l'ho portato un paio di volte a fare, perché avevo preso, non so, non era neanche il virus, era una... comunque l'ho portato, ma ho preso 40 euro per resettare. Questo qua nuovo sembra non stia dando nessun problema. Vabbè, già fruttizia, vero? Lo usiamo per lavoro, non lo usiamo per giocare. Ecco, aspetta una talicilisci. Che computer è? Una Cervistas. È abbastanza, diciamo, nuovo. Non è quei vecchi. Sì, ma portatile o cos'hai? Di quelli desktop per caso. È un portatile grande però. Ah, un portatile. Meglio, ci dici? Dipende che sistema operativo c'ha. E penso Windows, non lo so, se voglio accendere di nuovo, c'è un bel monnetta. Allora, mi ha preso mio figlio e me l'ha dato, capito? Mi ha comprato il micro suo. Capito, ha posata però. Ho capito. Cazzo. È che ci vuole tempo, non è così. Come ti dice le galline, avevo nei 10 minuti. Non è gai su tutto. No, vabbè, a me io glielo lasciavo Natale, poi non so quando, io pago sopra, guarda, l'ultima volta gli avevo portato, mi aveva chiamato, ci aveva messo una 20 minuti a farlo, però vabbè, dipende anche da cosa, a me ti ripeto due o tre volte, sempre quel tempo ci metteva. Non ho capito, non è tipo cosa, io non ho niente, è soltanto che voglio pulirlo e resettarlo, tutto qua. Non lo so, a me, ti ripeto, per quello che avevo io, ti parlo per quello che aveva il mio, io 20 minuti me lo faceva, poi non lo so, se altra roba, boh, non lo so, allora, anche come dice Natalino, ma ci metto anche mezza giornata, una giornata per farlo. E a me via Giovane Pasqua mi ha mandato 50 euro e gettato in piedi della luce. C'è stato un amico, me lo faccio fare buonanotte. Non lo so, tu lì, la tassa te lo fanno. C'è stato un amico, ripeto, gli faccio un regalo, lo faccio prima. Però se si faccio di dare negoziate 50 euro no. Non lo so, Natalino non te lo può fare. Natalino, non lo so. Natalino. A te, chi è che mi chiama Passo a Passo? Santiago, non ti vedo e radio non ti sento. Che cosa? Non ho capito. Giusto o nome? Tanto lo senti tu? Basso. Basso lo sento. Gavi, tu lo senti? No, non lo senti anche tu, Gavi. Ascolta, c'è che fare qualcosa che è più forte, che di radio non ti sento. Ma chi è? Chi è? Ho detto che sono più stallone. Ah sì, più stallone. Sì, chi è? E com'è se sei più forte di radio? Cosa è successo? Ho sbagliato l'antenna. Cosa hai fatto? Ho messo un po' l'acqua nell'antenna. Hai messo il paracco all'antenna? Un po' l'acqua, ho sbagliato l'antenna. Ho detto, vedi sei più forte. ma non ti ho capito chi insieme. Ciccolone. Buonanotte. Giuseppe. Natalino, sì, te. Sono rientrato. Ma mamma mia, Giumani, fai soldi già. Già lo sento, a quello lì. Avanti già, infatti già, alziamolo pure, fai ciò che faccio. E tu ne sei entrato un trombone, no, è venuta Manuela per prendersi lo sciroppo, perché Marco non sta bene, c'è la tosse ben forte. Le ho comprato lo sciroppo stamattina, è venuto a prenderselo, ma si è andata via subito, quindi ho detto vabbè, rientro. Comunque, la figlia di una poco fa stavo dicendo, si è morta a 16-18 anni, non di più. No, è a 30, non è a 16. Almeno. Vabbè, gli anni passano, Tony. Lo so, però non lo dimostra, proprio non la conosce, la vedi a più impatto. Lo ascolti già quello basso basso che... Ha detto che è frittellone. A me mi sembra che è un pillone. Un pillone? Oggi, dimmi che sono Tony, dire a Torino, sono un pillone. Ah, si è cambiato Manuela, ammazzati in varia. Manuele, ma che mi sei abitato Tony e Manuele? No, perché no, proprio Pio Pio, a rimanere a Santiago 9, a me Santiago non ti vedo e non ti sento. A me mi sembrava uno di Sorso, pensavo che fosse quello di Sorso che arriva sempre in basso. Vabbè, ciao Manuele, ben sentito, dai avanti. Mi Antonio, mi... Ascolti quella mania di la frutta, sto... Ah, ma hai facciato la colonnina, Antonio, mi la devi pagare, No, gli 600 posti di radio. Ma certo, non farò scorreggire il microfono, Se no poi si funziona con tutti i barattini. Manuè, Tony. Secondo me sei entrato basso basso. Avevo capito Pirellone, Piuserone. Piuserone stavo dicendo, cosa Pirellone. Allora, arriva talmente più vivo, non riesce a prenditi, ga. Sono messo così basso, di nuovo non te ne sono stato. Ah, sempre lì, sempre dove era ieri, non ho toccato niente. Non c'è radio adesso, prima no. Oh, nella golla, va, e non tocca più nulla, Manuele, qua sta arrivando bene. Sempre Natale, sempre così, da ieri a oggi è sempre così la terra, e poi tocca Zamburu. Non tocca nulla, non tocca, se. Metti un accettoio vicino, sono stato da me Gavino, non lo ascolta, Gavino riprendi. No, non cucchio, non sto toccando a nessuno io, né Antonio né Alfredo Marco, diciamo, non riesco a tirarli fuori. Non riesco a tirare il fuori, avanti Gianni. E ha regolato là? Positivo, no, c'era, in pratica pensavo ci fosse, io lo stavo usando, per attenuare la voce di una persona che aveva molta tonalità alta, per esempio come fosse la tua, ho attenuato un filtro e pensavo funzionasse solo in ricezione, invece va anche in trasmissione, mi segui, quindi è per quello che ero barattoloso. Adesso com'è già? Adesso va meglio. Adesso sei tu, non è più come era prima, io te l'ho detto senza sapere che eri nemmeno tu, mi l'ho detto così perché la sentivo davvero come se avessi una patata in bocca, così cavolo, che radio è questa qua, non avevo capito ma come eri tu Gabi, figurati. No, è perché c'avevo questo filtro qua che ha attenuato di sei kilohertz di cose, il filtro degli altri, delle altre frequenze sulla voce, capito? Cioè non vedo che l'avevo battato in bocca. E vabbè, ne va bene, comunque. L'importante è che adesso sia lei e sia tutto positivo, dai già. Perché tu mi hai detto che l'altro volta ti avevo un'altra radio, dall'altro volta ho detto, ma magari c'è qualche radio con qualche colonnina strana, con qualche modifica, e allora ciccia. Però se va bene, se mi conferma che tu va bene, siamo a posto. Kappa, ragazzi, non ti preoccupare. Non è stato per riproverarti o cose, è stato solo per farti capire che non stava uscendo bene la radio. Avanti a chi tocca. Io mi sono fatto già il pollo, quindi sovraccosci il pollo, allora lo smarino che è un bombo. Ma che tante capi lui? Che quel maratolino verde? A tu. Quelli sono quei buoni, lo so. Io non ho fatto fuori il carro e il cammo alla dondolo. Ah, non serve conservante. Manuele, che ho detto di fare? Manuele, comunque avete visto latte dolce, sapete pizza prima del ponte, dove c'è la chiesa, ha levato di calorba dell'asfalto, la mazza di Nefaria, io però non lo sapevo, ho accelerato un po', gli abbracci a Baggicuto, gli animali che hanno fatto questa cazzata, ma fatta apposta? Ma non lo so, ma non penso, non so perché non ho fatto questo bel pezzo, c'è un bel rialzo e poi si sente quando uscite di nuovo. Ma la permetto, non è fatta apposta, non è uno per rallentare, hanno fatto l'asfalto poi. E bene, avevo solo un pezzo, e questo rialzo che c'è di colpo? Hanno fatto ieri l'altro pezzo. Ammazza, gliene fai, raga. Metti qualche segnale, brusa. Se passo le moto ti cacciami. Sarà come ha piovuto, si è svuotato il terreno e si è abbassato. No, che tu hai asfaltato già, che c'è proprio il tacchetto, c'è. Cosa? No, io non lo sto portando, sta portando Elena. No, tira ancora, no, non va bene, dai. Tira troppo. E vieni lo stesso, non c'è problema. Ma dimmi a che ora passi, perché io devo uscire, devo anche andare a prendere la carne, capito? Al centro carni, a prendere niente. E dai, dai, te mi fa colpo il telefono prima di passare, ci prendiamo il caffè, dai, cappa, e andiamo piano. E guarda, attenzione, rialzi a tu. Perché vicino alla chiesa ce n'è uno che mi ha puntito in macchia. Ha ricevuto una brosca e maga. Davanti alla chiesa proprio. Prima della chiesa e dopo la chiesa. C'è stato un marasorte di asfalto arrivato e ha lasciato un sacchetto alto, la mazza all'acqua. Manuele, adesso è tutto tranquillo, Sì, ancora no. Ah, cos'è te, Manuele? Ma correi, diri, tu. Ma la volta che sei trampato, di correi. Come mai ti sei fatto male così, via. Dove hanno raschiato l'asfalto? Manuele. A muro, sono andato, se. Ci siamo andati su, Ranuzza. C'è anche Gavino al parcheggio. Gavino non sente, né Manuele né Antonio. Avanti, Gavino. No, io proprio non li sento, proprio non li copro, non riesco a tirarli fuori. Guarda, adesso a voi vi stavo ascoltando con il ricevitore. Gianni mi arriva 9 più 10, tu Tony mi arrivi segnale 8 quasi 9, 8 a picchi positivi a 9. Però allora non riesco né a tirarli fuori, proprio 0, 0, 0. E a Natalino come lo ascolti? Guarda, un passaggio Natalino, aspetta che commuto. Guarda, 1, 2, 3, prova, vai, come mi ascolti? Stavo ancora comunque. Gavino, non stai uscendo, Gavino? No, non è che non sto uscendo, dovevo commutare l'antenna. Natalino arriva a segnale 5, segnale 5 non arriva a me Natalino qua, ma è uguale a qua, uguale a questa radio che sto usando adesso. Però gli altri non riescono a tirarli fuori, niente. Ok, va bene. Va bene così, dai. Manuele, ci sei? Che stavo preparando i camperoni. Maglia poco, sei camperone, ammazza. Ascolta a me, il pezzo della chiesa è tutto aggiustato adesso, Ce l'hai coppa? Ancora sì, perché non hanno tutto asfaltato quel pezzo là, dalla chiesa in Puglia, lo so. Quindi a tu, occhio, No, ancora c'è quella cacchio di gradino, A tu, hai copiato. Anche a tu ne c'è sforzato. Tutti fanno e vanno, ripeti già. Ma anche io l'altro giorno lì sono passato in macchina e mi ha saltato, non capivo cosa era. Sono sempre passato e non me l'aveva mai fatto, Mi ha saltato la macchina, ragazzi ha detto, Però è più al centro del ponte me l'ha fatto. Allora, praticamente prima della chiesa, quando faccio poco la chiesa, subito trovo questo gradino e poi lo trovo di nuovo, un bel pezzo l'hanno fatto, non so se 4-5 metri, ho fatto so. Quindi a ritorno, andato a ritorno, che faccio una strada o dal ponte vai verso la Feroce, no, verso la chiesa, lo trovi sempre. E non è che da poco, l'ho fatto da poco, e a me mi ha rimbalzato la macchina, ha fatto gli abbracchi e mi ha cicuto, ma ormai sono travagliato a fare, puzzino si rivecchia, raga. Ma sarebbe tra l'asfalto nuovo che hanno fatto e quello vecchio, il gradino? C'è il gradino dopo la chiesa, o prima della chiesa, non mi ricordo più adesso, comunque. E il pezzo della schiena, dove ce ne passa il cipedonale praticamente? Dopo la chiesa. Dopo la chiesa. Cappa, vabbè. E adesso che lo sappiamo andiamo a trovare, perché domani devo andare a Cetroccarli e devo passare lì. Ma è tutto quanto il pezzo della strada, tutta la larghezza l'ho fatto questo gradino qua, non è solo una parte, è tutta grande la carriera, destra e sinistra. Potevano mettere un segnale a rallentare o qualcosa del genere, pericolo, qualcosa del genere. Se passa una moto veloce anche lo scooterone si sciupieggia. Segnale d'osso. Antonio. Antoine. E c'era Magnetti. Ossia, mi raccomando, fai piano prima che mi entrano le ruote senza la cucina. Se le ruote per la cucina. Grata di riprendi. Questo Manuele Mascena è. Guarda lì, mi raccomando, tu non passare, prima che mi senti un mattone sento il cavalletto. Antonio, passa piano quando vai vicino alla chiesa, prima ti mangi l'ubriti, non sa mai. Già che sei infortunato. Ma cammina questa moto, Antonio, ma cammina questa moto, Kappa kappa. Vabbè. Già va bene, così consuma meno anche. Cosa va, miscela? E io invece usavo Repsol nella moto mia, capito? Era una Aprilia la mia. Voglio per Aprilia, di sera ci metto io. Oh già, io quando ero ragazzo, che avevo il 48, ci mettevo sempre nel serbatoio una bottiglia di ricino e quando passavo nella via lagavo un fiago. E tutti lo mettevano io del ricino, ogni avviago. Cioè lo so, sì. Dice che lo faceva camminare di più, li puliva il motore. E puliva il cilindro meglio, comunque. Perché poi facevo il giro del palazzo, ritornavo al passato e la vera corruzione. Facevo un po' di fumo anche. E via. Però c'ha un velo d'oro, ti cazzi, pucci in fianco. Prima se ti agattavani. C'è gente che al posto della benzina mette l'olio di semi, del gasolio mette l'olio di semi nella macchina, fa andare l'olio di semi. L'ho visto su internet, ci sono persone che a Roma lo prendevano l'olio di semi quando è aumentato il gasolio. Gavino, ti prendi? Positivo, no, però poi si lamentavano che bruciavano i vettori o sporcavano il carburatore o gli succedevano cose alla pompa. E più di uno, e se ti fermavano erano guai, c'era gente che diceva il nostro la turbina rotta. No, non è così, non si intende l'ubriaco di lupo. Ma poi come fai a... casino. Come fai a mettere l'olio di semi nella macchina? Ma come fai? C'era un periodo che andavo a Roma, tutti i supermercati erano senza olio di semi. Adesso non mi ricordo che olio era, di che semi era, se era semivario, che cos'è. Però erano su tutti gli scaffali, avevano inquadrato tutti gli scaffali vutti, non c'era più olio di semi. Olio di salsa era. Se lo compravano anche da quello di 5 litri, con la bidone di 5 litri. Pensavano di risparmiare, poi andavano, poi ci mettevano 500 euro al meccanico per aggiustare le pompe. Ma infatti non è una cosa ammissibile questa. Se va a gasolio va a gasolio, non deve andare con l'olio. Di tutti i colori se ne vedono già, se ne vedono di tutti i colori. Oioia. Niente. Guarda sul messaggio che ti ho mandato quando mi stai arrivando. C'è Antonio che state uccidendo, poverino. Antonio, le prendi. Ma c'è gente che gli mette il pieno di olio. Che schifo. Ma ecco, come fa la combustione? Solo con l'olio. Manuele, sì. Manuele, dopo il telefono, c'è mai. Vabbè, dai, già, 8:04. Io mi ci do tavola, metto già il polluccio che è pronto e me lo mangio il trucato che è buono. Ok, dai, ciao Gianni, ciao Natalino, ciao Davino, ciao Antonio e ciao Manuel se l'ascolto. Buon proseguo, state bene, cuore tanto alla pandemia, ciao. Kappa, riprendo io per salutarvi, anch'io che me ne faccio in cuore retti. Ciao a tutti e alle prossime. Cuore retti per me. Ciao Natalino e ciao Tonino, dai. A domani, mi sta venendo un convivuto, un colpo di tosse, non riesco manco a parlare. Riprendi Capino, io sono un attimo al cellulare. Eia, ciao Natalino, ciao Tonino, dai, ci sentiamo alle prossime, buona serata e buona cena a tutti, ciao. Poi già anche io chiudo che è arrivata mia figlia, dai, sentiamo domani, ciao ragazzi, buonanotte. Ciao Gabri, ci sentiamo, dai, io mi sto facendo con un attimo una telefonata. Ok, ciao a tutti di nuovo, ciao Antonio pure. Poi, Eia, adesso mi ascolti meglio. E cosa cazzo hai fatto, cazzo cosa hai fatto? Ma io mi ascolto. 9:10, 12:05 a Mova. Eia, va benissimo, dai. Cosa hai fatto? Ho alzato la radio sopra la mensola. La radio sopra la mensola? Non so, mica l'hai messa sul Wucci che fai prima. Wucci non si svegliane. Dove l'hai messo? Senti, l'ho coricato a fare una direttiva, va. Se meglio così. Oh, mi raccomando, domani alle 2:30 mi mano è. Sì, l'ho già chiamato a Leonardo, ha detto che domani alle 2:30 siamo lì. Ok, d'accordo, dai. Lascialo così che va bene con l'antenna, adesso è perfetta. Sì, andare, dai. Vabbè, tanto sto chiudendo anche io e vado a guardare la televisione. Già ci vediamo domani. Ciao Gianni, ciao Mauro. Antonio, ok, d'accordo, Manuele, domani, ciao, avanti che mi chiama. Aspetta, Manuele, Ginko. Ehi, a chi è? Ciao, basso, ti ascolto qua, io sono, vabbè, sono dentro in container. Però ti ascolto basso, dove c'è la direttiva, c'hai, cosa c'hai? Cosa direttiva, c'ho l'antenna dentro casa. Cosa hai detto tu lì? E c'è l'antenna dentro casa. Ah, l'ho sentito basso, volevo insomma salutarlo, dai, che era un po' senza sentirlo. Andavi, dai, sono in Curix qua e sto facendo cosa. Lo riprendi tu lì, ciao. Ok, ciao, che te, buon Curix, sì, io sono preso che insomma a fare carica batteria che faccio una fabbrica. Ok, Manuel, d'accordo così allora, lascia così l'antenna che è a posto, che è perfetta, che sia bomba. Ciao a tutti, ascoltoni, ci sentiamo, ciao. Tony, ma che cabino è? Lo sai cosa fa Manuele? C'ha il drone, gli mette l'antenna sopra e la mette sopra casa tua, ed esce più forte. Infatti lui non la rivendi, ciao. Ehi, tu non hai conosciuto questo che ti ha chiesto poco fa? Ma. E chi è? Chi è? Dai, diglielo se lo vuoi dirlo tu. Gianfranco la scimmia, ciao. Questo è Gianfranco la scimmia. Ciao Manuelettino comunque, dai. Oh, ciao sì, dai, non ti sento bene perché... Quindi non riesco a... Se si alza qua arriva non riesco a capirti. Comunque, dai, mi ha fatto piacere ascoltarti. Stiamo uscendo con un baracchino a 5 watt io qua. Con un SSB, diciamo cos'è, un 32 canali, anzi 23 canali, e di quelli vecchi. Ciao Tino! Ciao Gianni, ciao! Ma ok, chiudo di nuovo, ciao Tino, ciao di nuovo Gianni, ciao Manuel, a domani. E ciao a tutti. Ciao. Anche tu Manuel stai andando via. E già, ci sentiamo, dai, che guardo un po' di televisione. Manuel, Gianni, lo ascolti meglio Manuele. Ma io l'ho sempre ascoltato bene dall'inizio, perché forse le antenne si vedono, capito? Ascolto bene. KK. Va bene, dai, buona carica a tutti, dai, quando l'ha fatta. Avanti, chi è rimasto? Ciao della magna. Ciao a tutti, ciao. Ciao Gianni, devo lasciare che sto imbustando, quindi mi serve un po' di tempo. Non ce la faccio oggi. D'accordo, ciao, buon divertimento. Ciao, poco da divertirmi, ciò che non ve ne asciugo più e vado a cucinare qualcosa. Dai. Ci sentiamo, ciao. Va bene, ciao.